Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Non so per quale balzana ragione poche persone credono e sono convinte che io prenda mezzi pubblici, perché esiste una sorta di pregiudizio per cui le persone che fanno radio, scrivono sui giornali, vanno in televisione, vagamente baciate da una minima visibilità, viaggino soltanto su macchine con i vetri oscurati, con sirene spiegate, o vivano in dei luoghi completamente asettici per non avere il contatto contaminante con l'umanità. No, io invece prendo metro e mezzi pubblici ogni mattina, lo sa chi mi vede, chi mi incontra, ma non che me ne faccia di questo motivo di gloria. È la maniera migliore, più semplice per arrivare a lavorare. E poi ho una grande possibilità e facoltà di avere indicatori costanti e continui su dove vada il mondo, cosa pensi la gente. La mia esperienza di viaggiatore su mezzi pubblici romani mi fa dire che in realtà nella capitale d'Italia siano soprattutto gli stranieri a prendere mezzi pubblici. La mattina non lo prendete come un oggetto discriminatorio, come un punto di vista altezzoso o snobistico, ma l'odore dentro i mezzi pubblici mi segnala la presenza di straniero, perché l'alimentazione di alcune etnie è molto diversa da quella nostra e quindi la mattina prevale l'odore di aglio e cipolla. Perché? Perché la mattina magari la maggior parte delle persone prende la metro, si nutre con cibi a base di aglio e cipolla. Quello mi fa capire, finalmente sono entrato nel mondo dell'umanità che vive, che si muove, non asettica, non edulcorata. Secondo la differenza dell'orario nel quale io monto nei mezzi pubblici, trovo varie fette di umanità. Gli anziani sono, soprattutto adesso, comincia a essere delle giornate piuttosto torride. La mattina presto i signori di una certa età, con quei bei gilet con le tasche, da cui escono camicia, maniche corte, magliette, e le signore con il carrellino per andare a fare la spesa, sono molto precoci nell'uscire, escono la mattina presto perché si salvano e si risparmiano le ore del sole cocente. La differenza fondamentale tra metropolitana e autobus è che la metropolitana è più cosmopolita. In una città come Roma, le metropolitane sono spesso aggredite da transumanze di grandi mandri, di turisti di varie provenienze. Esiste l'attacco dei giapponesi, esiste il blitz dei polacchi. Secondo la mattina, secondo io poi prendo una fermata che è Musei Vaticani, figuriamoci ai Musei Vaticani cosa possa entrare e uscire in questo periodo. La nota prevalente sono le signorine con pantaloni corti e ciabatte, che usano pantaloni e ciabatte sin dal finire dell'inverno, quindi già da febbraio-marzo ci sono ragazzine straniere in pantaloni corti e ciabatte. Questa mattina ho notato due o tre signore bellissime, bellissime perché hanno quei vestiti leggeri che si mettono nelle giornate molto calde e molto torride, ancora non affrante e non squagliate dal sudore, dalla stanchezza, una sorta di fragranza estiva che mi ricordava altri tempi. Perché vi dico questo? Perché questa mattina vorrei portarvi a ragionare sui mezzi pubblici. Quanti di voi prendono mezzi pubblici? Quanti si muovono in mezzi pubblici, al di là di luoghi comuni, al di là delle letture stereotipate, al di là dei problemi, le corse che non funzionano in questi giorni a Roma, c'è una grande polemica su una nuova tratta della metropolitana che avrebbe in realtà rallentato la vecchia tratta, e quindi la mattina vedo arrivare colleghi e colleghe affranti, arrabbiati, oggi ho aspettato un'ora, uno sconcio, stavamo tutti dentro pigiati. Sì, non è bello stare tutti dentro pigiati, ma approfittatene per dare un'occhiata all'umanità. Avete notato quanta gente legge libri dentro la metropolitana? Ci autoflagelliamo, siamo un popolo di ignoranti che non leggiamo libri, guardiamo soltanto i programmi di Maria De Filippi. Se andate una mattina dentro la metropolitana avrete un esempio di umanità che legge libri. Signore, signori, signorine, ragazzi, ragazze, tutti con il loro libro in mano, con il segnalibro, scendono veloce alla fermata con il libro sotto braccio, imbroccano la scala mobile sempre con il libro sotto braccio, probabilmente continueranno a leggere durante la giornata. Ah, le scale mobili, già l'ho detto. Nelle scale mobili si nota il discrimine fra le due categorie dell'umanità. Coloro che amano prendere la vita per quello che è, che non si vogliono affaticare, e coloro sono sempre frenetici, che correranno veloci, avranno un infarto, arriveranno a morire senza nemmeno essersi accorti perché sono agitati tanti. Nella metropolitana in salita c'è la possibilità di fare due file. La fila di destra, quelli che stanno fermi, aspettano. Si chiama scala mobile, stai lì fermo, seduto, in piedi, come vuoi, però la scala mobile porta fino in cima. E quelli che invece salgono camminando sulla scala mobile, che è molto ripida, perlomeno in certe stazioni della metropolitana romana, quindi fanno una fatica bestiale. Io ho notato, cronometrato. Noi che facciamo parte della popolazione di destra, quelli che stanno fermi aspettano e guardano affannarsi veloci con la lingua fuori quelli che salgono in cima, poi recuperiamo, perché noi quando siamo in cima alla scala mobile camminiamo spediti e gli altri hanno la lingua in gola, non ce la fanno più, il cuore gli scoppia, la loro ansia li porterà tranquillamente verso la morte. 800240024, che uso fate del mezzo pubblico? Quale abuso fa di voi il mezzo pubblico? Spenti i riflettori sull'inaugurazione, probabilmente l'operatore addetto agli scambi ha dimenticato di presentarsi il giorno dopo in turno. Risultato, la metro B1 della capitale, nel tratto tra Piazza Bologna e Concadoro, è rimasta ferma per l'intera mattinata. Un esordio amaro per tutti, per i viaggiatori, per l'ATAC e per Roma Capitale. Il servizio è ripreso solo poco prima dell'una, con le scuse dell'azienda che ha dovuto organizzare in fretta e furia il servizio sostitutivo in navetta, giustificando il disservizio con un generico malfunzionamento. Scuse seguite da una promessa: chi ha sbagliato pagherà. Per far luce sull'accaduto, infatti, è stata avviata un'inchiesta interna, anche se la cosa potrebbe prendere una piega ben più grave, considerato che l'interruzione... 800240024, questo è soprattutto per i romani, riguarda il disagio della metro B1, grande argomento per tutta la Free Press di questi giorni. Io sono un grande lettore di Free Press, io devo dire che nonostante la nutrita mazzetta di illustri quotidiani che mi arriva sempre la mattina, il mio primo punto di vista è dato da quei giornali che si accalcano sui sedili della metropolitana, caldicci delle persone ci sono sedute sopra, che vengono abbandonati dopo la lettura perché si sa che quando arriverà il tardo pomeriggio ancora ci sarà qualcuno che getterà un occhio in quel giornale. Mauro, buongiorno. Buongiorno, signor direttore, saluto tutti i suoi ospiti, o quelli che interverranno e tutti quelli che ci sono dietro le quinte. Pace bene. Io volevo intervenire perché ho fatto l'autista per 30 passa anni e volevo dire il cambiamento... L'autista di qua, linea d'autobus urbana? Autobus extraurbano. In che città? A Padova. Ah, a Padova, bene. Quindi portava pellegrini verso il santo? Non tutti i pellegrini, qualche pellegrino però mediamente studenti e lavoratori. Allora, volevo solo dire il cambiamento delle persone dalle prime volte, da quando nel 76, quando ho cominciato a lavorare, l'umanità che c'era, quando salivano vecchietta tutti si alzavano, okay? E fino a 2-3 anni fa che praticamente che se c'era una vecchiotta nessuno si alzava, mi toccava dire io al giovane, ascolta, fai posto, perché cioè, ho notato questa cosa qua, un abbassamento dei valori, insomma, della vita. Dunque lei ha toccato un primo problema molto importante, l'abbassamento dei valori, poi ognuno chiama come vuole, la deriva della buona educazione, le buone maniere, la comprensione dei problemi altrui. È vero, una delle prime cose che si notano, il primo metro dell'umanità, si nota viaggiando nei mezzi, che non esiste nessun tipo di pietà, compassione, riconoscenza, venerazione, attenzione, mettetela come volete. Allora, per come sono stato costruito, condizionato, educato, io mi siedo quasi mai perché so che dopo 30 secondi mi alzerei, perché non riuscirei a tollerare la visione di una donna in piedi con me seduto, per quanto faccia sforzi, per quanto ormai abbia le tempie imbiancate, per quanto sia già accaduto un paio di volte che qualche ragazzo di buona famiglia si sia alzato e dice «Signore, se vuole sedere», creandomi una sorta di raggrinzimento gonadico immediato per la tristezza e la mestizia di essere considerato un vecchio, non riesco a farlo. Però vedo che normalmente non esiste solamente cognizione del fatto che in un mezzo pubblico esistono posti più comodi, posti più confortevoli, posti più in sicurezza e posti abbastanza precari. Quando l'autobus si muove, quando l'autobus fa delle frenate, chi sta in piedi rischia, ci vuole forza per tenersi attaccati agli appositi corrimano. Beh, molto raramente c'è questa attenzione. Perché? Prima domanda. Perché nell'autobus ci si accorge che improvvisamente nessuno è condizionato nel rendersi conto ci sono persone più deboli sulle quali, per le quali si può veramente fare qualcosa. 800240024, 0024. Andiamo avanti. Si chiamano Rino e Antonio e di professione fanno i controllori sugli autobus. Antonio ferma una ragazza arrivata a Modena in corriera, con la ragazza che si rifiuta di mostrare i documenti. Non ce l'ho! Cioè, dobbiamo andare in polizia. Non ce l'ho! cioè noi sappiamo che il documento ce l'hanno addosso, perché molte volte vengono fermate, come dicevo prima, dalle forze dell'ordine, quindi il documento ce l'hanno. Cercano loro di dare il nominativo, cercando di ovviare al problema, dando semmai dati falsi. Poi ci sono i portoghesi teatranati, con discussioni che durano interi viaggi. Per favore, hai lasciato mio piccolo che sta andando. Ha capito questo documento? Adesso io se vi la vai in giro ancora. Premetto che ho già messo nell'area Facebook Melog Radio 24 il primo video che descrive e racconta il mio viaggiare in autobus quotidiano, per dare prova che questo accade veramente. Qualcuno mi scrive come SMS: Nicoletti, è toppato, fare le scale è il miglior esercizio cardiotonico, lo chieda a qualsiasi medico. Ma non mi prendete in giro, vedo l'ansia, vedo l'agitazione in queste persone che salgono, queste ragazze ancheggianti, questi signori con la lingua fuori, col telefonino, che già fanno la riunione a cui dovranno partecipare. Qualcosa di terrificante, qualcosa di deleterio. Non c'è nulla della gioia dell'esercizio fisico corroborante. Daniela, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Allora, io adesso sono in pensione da pochi mesi e ho svolto le funzioni di segretario comunale per oltre 30 anni. Ho un problema di vista, per cui io non ho mai avuto la patente e mi sono sempre dovuta spostare sui mezzi pubblici. Con mezzi pubblici. Il che è, insomma, è stata un'esperienza non indifferente, perché mi sono messa in contatto con autisti bravissimi, con persone umili che hanno avuto, gli utenti che hanno avuto comunque delle forme di gentilezza enorme. Qual è il problema grosso comunque che volevo evidenziare? Che nei piccoli centri non c'è la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici la sera. Dopo anche Roma prende la metropolitana di notte, è un grosso problema. Ho capito, ma nei centri pubblici, se uno vuole svolgere un'attività lavorativa che li comporta, come nel mio caso, delle riunioni serali, io devo prendermi un'auto a noleggio oppure devo dormire fuori. Adesso non voglio entrare nelle specifiche di gestione, perché entriamo in un problema di tipo amministrativo. Sì, è un problema che per i non vedenti è enorme, cioè il potere svolgere una vita. Ma anche per i gaudenti, guardi, uno dovrebbe avere il lecito diritto di uscire la sera, fare bisboccia e tornare a casa senza rischiare col mezzo pubblico. Io penso ci sia un problema innanzitutto di budget. Autisti in straordinario notturno costano molto di più. E poi in generale c'è una visione umarellica dell'umanità, per cui la sera la gente deve stare a casa. Le brave persone la sera stanno a casa e dormono. Quindi che deve lavorare, okay. Cioè alle 7:30 di sera che ci sia l'ultima corriera, 19:30 che ci sia l'ultimo corriera. Questo però è un problema locale. Io sto dicendo nelle grandi metropoli come Roma. Ma è molto difficile prendere una metropolitana di notte, a meno che non sia il venerdì o il sabato. 800 24 00 24. Poi a me non interessa tanto parlare dei problemi legati al trasporto. Oggi non è una trasmissione di servizio, oggi è una trasmissione immaginifica. Dovete raccontare quella che è la vita nel mezzo pubblico. Esiste una realtà parallela da cui si entra e si esce ogni volta che si suona il campanello, si aprono le porte e si affronta la giornata. Signore, io niente biglietto, vengo da molto lontano, non sono inserito ancora in paese, non so dove comprare il biglietto, io ho provato bar. Sceglio io i biglietti, stai, li avevo appena obliterati. Lei è Stefano Nardini? Sì. Mio figlio ha comprato tutti i suoi dischi, tutti. Dove? Gli può dire che il terzo è in cantiere, insomma, ci siamo quasi. Argomento anche molto forte, quindi magari. Questo è un film notturno bus in cui Mastandrea si finge un immigrato per non pagare il biglietto. Altro momento molto difficile da gestire, l'imbarazzo di vedere una persona beccata dalla coppia di controllori che si trova senza biglietto. Calda, può capitare qualche volta, può capitare a chiunque. Io mi sono fatto un bel abbonamento mensile, quindi sto tranquillo. Ma mi dimentico di firmarlo, una volta mi ha detto: lei non ha firmato l'abbonamento. Effetti, è vero, non l'avevo firmato. Non ho manco fatto caso da anni che andasse firmato. Qualcuno dovrebbe fare il furbo e poi scambiarlo, tornare a casa e darlo a un altro, quindi dovrei firmare l'abbonamento. Però esistono tante fattispecie, tante possibilità di osservare l'umanità. L'una è quella della necessità di fare il biglietto. Poi esiste l'intrattenimento da metropolitana. L'intrattenimento da metropolitana è una caratteristica che coglie soprattutto nelle grandi città. Milano come Roma, io pensavo fosse una caratteristica soltanto romana. Roma ormai sono fisse le orchestrine di Rom che salgono, sono seduti tutti nell'ultima panchina prima della salita nei vagoni. Salgono, fanno il loro concertino, rompono le orecchie perché è musica elettronica, con delle basi fortissime, suonano il violino, suonano la chitarra. Le signore sanno tutte cantare benissimo, non ho ancora capito se cantano in playback o sanno cantare. Forse loro, forse me lo può spiegare meglio Tommaso Labranca. Tommaso, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, Tommaso Labranca, ti presento. Sei ormai un amico della nostra radio, sei un osservatore dell'umanità, hai scritto vari libri, gli ultimi sono tutti dedicati soprattutto a rock star, Jimi Hendrix, Biorock, Good Mood Edizioni, Taricone, La vita che desideri, per la Rizzoli è una biografia del compianto grande eroe dei reality show, poi su Freddie Mercury, poi su Michael Jackson, su Renato Zero. Però io immagino, suppongo, non lo so, non ne ho certezza, che tu conosca perlomeno l'umanità che attraversa le città con i mezzi pubblici. Beh, l'80% delle cose che scrivo, al di là delle pop star, nasce in metropolitana, perché io viaggio moltissimo sui mezzi pubblici, da sempre, ho il mio abbonamento mensile, che non ho bisogno di credere, per me queste cose magnetiche si magnetizzano, e vedo quello che succede e so quello che succede nel mondo più di quelli che stanno nei giornali e scrivono gli articoli di fondo. Perfetto, allora ci ho preso, abbiamo lo stesso punto di osservazione. Vediamo un po', innanzitutto tu conosci la realtà milanese, o posso parlare della realtà romana. Milano rispetto a Roma è una città in cui è possibile vedere il docente universitario in metropolitana, il collega di un giornale in metropolitana. A Roma è molto difficile questa cosa, c'è una sorta di snobismo per cui anche l'impiegata del catasto deve prendere l'automobile perché sentirebbe una stracciona ad andare in metropolitana. Milano è lievemente diversa, non c'è lo snobismo da mezzo pubblico. È vero, si incontrano persone di ogni tipo, di ogni genere. E a differenza di Roma, soprattutto a Milano, non ci sono i turisti, ci sono pochissimi turisti rispetto a quelli che ci sono a Roma e limitatamente proprio al centro. Quindi chiusa la metropolitana lo fa veramente per lavoro, per andare appunto, tu dici, universitario, andare in università o andare molto presto a lavorare. E anche qui però, come penso a Roma, la maggior parte degli utenti non è di origine italiana, ecco, diciamo sono tutti questi persone venute da altri paesi che sono qui per lavorare e sono la maggioranza veramente sui mezzi pubblici metropolitano, per quelli di superficie. Quindi abbiamo il primo dato, che Roma e Milano, le due città dell'asse che attraversa il nostro paese, sono prevalentemente popolati i mezzi pubblici da stranieri. Gli stranieri prendono più mezzi pubblici degli italiani. Non sarà una grande scoperta, però le città sono affogate di traffico e i mezzi pubblici italiani li prendono in misura inferiore rispetto a quello che lo fanno gli stranieri. Si evolveranno gli stranieri, diventeranno ricchissimi, avranno 6 automobili a testa e a famiglia anche loro, piglieranno tutte le automobili, ma al momento è così. Purtroppo al momento è così, sì. Senti, un'altra cosa, l'intrattenimento da mezzo pubblico, soprattutto nelle metropolitane. Io ho osservato molto Milano, ho notato che quella sorta di trolley, che è lo strumento di accompagnamento tipico di tutti i rom che salgono sulle metropolitane, è uguale in qualsiasi linea vada, rossa, gialla, verde, in qualsiasi fermata. È costruito con molto ingegno, devo dire, c'è una sorta di amplificatore di vecchio tipo con le batterie, è tutto legato con quello scotch industriale con sopra il marchio. C'è un piccolo marzupietto in cui mettono i soldi, probabilmente c'è il microfono incorporato, c'è il regolatore di volume. Esiste una sorta di, non voglio dire di racket, ma di organizzazione che fornisce tutti i gruppi da metropolitana della stessa dotazione. Tu sai qualcosa da dire sul repertorio musicale, su cosa cantano, su come interpretano, data la tua maggiore competenza in questo campo? Dire che io vedo cose che forse gli altri non vedono, perché tutti questi musicisti della metropolitana salgono e sono sempre presenti in una determinata fermata della linea gialla di Milano, non so perché l'ATM non si renda conto, ma a volte salgono e fanno musica acustica appunto con i violini, ma spesso vediamo queste soprattutto signore che salgono con questi sound system portatili e hanno un repertorio di 3 pezzi che sono di solito il tema del Padrino, Love Story e un altro pezzo che non so il titolo, che cantano non in italiano ma in una lingua slava che non riesco a capire quale possa essere, e tu dici forse è un playback, penso di sì perché hanno tutte la stessa voce. Sì, cantano tutte bene, mi sembra impossibile che siano tutte cantanti, le rom d'Italia. Sarebbero veramente ad amici anche loro, e invece no, sono in metropolitana e cantano per me fintamente, e vabbè, qualcosa portano a casa. Io non sopporto invece i violinisti metropolitani, quelli che entrano dicendo signore scusa disturbo, che mi alzerei e direi no, non scusiamo, perché suonano malissimo, cioè il modo in cui strapazzano Bach meriterebbe veramente la galera, perché suonano in maniera pessima. prima, e poi pretendono anche di appunto di avere dei soldi. Io spesso dico no, non ti pago perché hai suonato malissimo. Loro magari non mi capiscono neanche, però capiscono dalla faccia e vanno via. Io ho notato che in realtà radunano pochissimi soldi, in realtà secondo me il gioco non, la giornata non la fanno. Quello che mi domando e chiedo anche ai nostri ascoltatori: di cosa vivono i musicisti della metropolitana, dal momento che nessuno poi dà loro soldi, o pochissime persone, o solo qualche straniero che ancora si commuove e immagina il violinista zigano che viene chissà da quale lontano posto romantico, soltanto con il suo violino che si abbraccia la notte quando dorme sotto il ponte. No, in realtà hanno tutti lo stesso violino, hanno tutti lo stesso attrezzo, suonano tutti la stessa musica, quindi c'è una grande organizzazione. Ti prende con abitudine un mezzo pubblico, incontra sempre le stesse persone, le vede la mattina, ne studia gli abiti, vedi oggi ha quel vestito che aveva già 3 giorni fa, oggi si è cambiata le scarpe, oggi ha i capelli diversi. Io ho una serie, ma una lunga serie, una vasta serie di persone che osservo ogni giorno e vedo le loro mutazioni, immagino i loro rumori, vedo i loro incontri fugaci, vedo le loro solitudini. Loredana, buongiorno. Buongiorno dottor Nepoletti. Dunque io la mia è una realtà completamente diversa, perché io telefono da Venezia. Ah, prende il vaporetto allora. Lo prendiamo quando possiamo. La maggior parte dei veneziani non ce la fa a prendere il vaporetto. Costa troppo. I posti dedicati alle persone anziane, ai disabili o altro, sono occupati da gente stravaccata con gli zaini, dai troller anche grandi ad altezza, diciamo, armadi 4 stagioni praticamente. E noi veneziani, per cui l'età media dei veneziani va dai 70 ai 90 anni, siete in via d'estinzione. Ma facciamo la strada a piedi. Beh, vi mantenete giovani e in salute, scusate. Lei crede? Beh, se lei cammina molto. Però guardi, se l'avesse preso il vaporetto in tutti questi anni, non avrebbe avuto il fiato di telefonare alla radio. Vedi, lei può essere così pimpante perché è andata a piedi. No, il fatto è che io, lasciamo perdere, alla mattina lavoravo, poi ho avuto delle difficoltà. Comunque le dico, è difficile e assolutamente poi impossibile se entrare dentro la cabina del vaporetto, perché non c'è soltanto aglio e cipolla, c'è di tutto. Però, è preferibile restare fuori. La folla, la caratteristica della folla, che proprio ha un odore di promiscuità. E guardi, sono i turisti. I turisti perché non si lavano? Presumo di sì. L'uso del sapone non è molto gradito. Quindi se fossero solo veneziani profumerebbe di violette e di lavanda? Non lo so, però comunque è meglio. Soltanto veneziani e da un'altra aria. Ed un'altra area, quindi soltanto, diciamo, lei vorrebbe un vaporetto esclusivo con tanti posti a sedere per gli anziani, entra soltanto chi si lava le ascelle. Sarebbe l'ideale, il suo sogno. Sognare non c'è nulla di male. Io le auguro di trovare il suo vaporetto della felicità, che la porti tranquilla. No, guardi, è facile trovare il vaporetto libero alle 4 o alle 5 del mattino. Per il resto, per 24 ore circa, i vaporetti sono inavvicinabili. Ma sono anche i turisti, sono i turisti che portano i soldini in questa città che ormai è un'anziana putrefatta, quindi tutto sommato è giusto che ci siano. D'accordo, va bene. Va bene. Grazie Loredana. Marco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì, ma io ho letto, diciamo, la sua capacità di lettura light del viaggio in mezzo pubblico, nel senso... È la mia, non è in assoluto la lettura universale. No, io parlo bella, ho un altro punto di osservazione che è piuttosto complicato, complesso, perché facciamo mezzo pubblico per entrare a Roma da un paesino in provincia. Ma lei è un pendolare, è qui per corroborare la mia testimonianza. E quindi, diciamo, per noi è un senso di... cioè si vive come un'invasione del proprio spazio, quella coabitazione così forzata. Insomma. Quindi l'autobus di linea prende lei? L'autobus di linea, poi metropolitana e poi mezzo pubblico. Quindi, insomma, ecco, diciamo, come cambia la qualità dei suoi compagni di viaggio in queste tre tipologie differenti? Ma è pressoché la stessa, un po' più intima sul pullman di linea, insomma si ha uno spazio, diciamo, più condiviso, più conosciuto, pressoché lo stesso, insomma, in ogni giornata. Ma poi passando alla metropolitana, insomma, c'è una sorta di... non è piacevole, insomma, non si ha neanche quella capacità di osservazione che lei prospettava, insomma. Magari uno più attento, colui che è un pochino più capace di tirarsi fuori, ma insomma è vissuta piuttosto come faticosa, quindi questa lettura non si riesce. Perché lei è già reduce, da un viaggio in autobus. Io entro fresco nella metropolitana, non mi sembra vero. Guardo intorno affamato, assetato di osservazione. Piace tanti. Poi prendo una metropolitana bellissima, perché è quella che passa per il Vaticano, quindi salgono e scendono preti. E vederli fuori del loro habitat, a contatto con qualsiasi umanità, è molto interessante. Io l'ho visto, ma insomma, ecco, io vivo soprattutto la metropolitana e vissuta piuttosto. Poi dipende anche dall'orario, insomma, c'è un momento nel quale si riesce a gustare anche la Roma, la bellezza della città, ma è piuttosto difficile. Beh, sottoterra, oddio, non è che si veda tanto, però diciamo nella tratta che va da Piazzale Flaminio a Lepanto c'è un attimo di sole. Nella linea A, poi la linea B è anche molto, va molto all'aperto. Dipende come si gira. Danilo Masomasotti, buongiorno. Buongiorno. Danilo Masomasotti è l'ispiratore di uno dei temi che è l'asse portante della mia osservazione dell'umanità ormai, essendo io anagraficamente in quell'area grigia, quella degli Umarell. Danilo Masomasotti, in quanto bolognese, ci racconta una città media della provincia italiana, il rapporto fra mezzo pubblico e popolazione. Vai Danilo. Allora, il rapporto tra mezzo pubblico e popolazione è molto simile a quello che ha descritto prima Tommaso Labranca. In quanto Bologna, non essendo comunque assolutamente città turistica, quindi i turisti sono più o meno assenti. Tra le nuove fenomenologie, ecco, ho osservato, io che prendo ogni tanto il mezzo pubblico, stranieri per giovani, cioè quindi nuove generazioni di stranieri, ragazzini. Quelle con le scarpe tecniche, con i pantaloni al ginocchio. Sì, esatto, tutte queste nuove generazioni, però tutti con la S bolognese, capito? Cioè, quindi vedi questa nuova mutazione. Poi sempre, vabbè, sul fronte umarellico, gli Umarell, ad esempio adesso sono qua davanti a una fermata dell'autobus, appena fermato un autobus non c'è nessun Umarell, ci sono solamente delle donne. Beh, perché ormai è tardi, scusa Danilo, a quest'ora sono già tornati a casa. Infatti è tardi, però in questo momento ci sono delle donne tipo di etnia, io quale chiamiamo pakistane, insomma, però insomma sono queste donne da questi colori arancioni, gialli, così. Gli Umarell invece prendono l'autobus prima, ovviamente per ostacolare le persone che vanno a lavorare. Di solito l'Umarell c'ha l'abbonamento che mostra con orgoglio e aspetta, perché l'Umarell anche lì sull'autobus c'ha una funzione di controllo molto importante. E quindi che cosa fa sull'autobus? Aspetta che salga il controllore, che è un suo alleato. E denuncia quelli senza biglietto. Sì, cioè, certo. L'Umarell, ci sono varie tipologie di Umarell. Di solito l'Umarell, cioè, sta lì e insomma scuote la testa, non interviene, però è dalla parte della legge, dalla parte del controllore. Raramente ci sono degli Umarells interventisti, però stanno attenti perché hanno paura di cadere. Le cadute riguardano di più le sdaure, perché soprattutto le signore, sì, in autobus semivuoti, spesso che quando l'autista tira una frenata, loro dall'ultima fila, cioè arrivano praticamente dal conducente, dove non possono neanche parlare con lui. Poi altri fenomeni di Umarells molto interessanti: siccome l'Umarell è abitudinario, fa sempre le stesse cose, l'Umarell conosce a memoria tutte le fermate. E quindi appena vede una persona in difficoltà, che prima avete analizzato il fatto che comunque non c'è dialogo comunque tra le persone, invece l'Umarell interviene ed è un Umarell della tipo, cioè tipo un Google Maps, un Umarell satellitare che ti dice, allora è un GPS anche incorporato. Esatto, quindi questo è Tommaso, esiste un momento fatidico, il momento della salita e della discesa. Ci sono le persone che vogliono scendere prima che gli altri salgano, questi tutti me lo stanno segnalando. Accade anche a Bologna che sia impossibile scendere perché vogliono salire prima che li stanno a terra. Sì, a Bologna ultimamente sugli autobus c'è un gran casino, perché mentre gli autobus sono comunque di vecchia generazione, dove hanno delle porte che sono per scendere e delle altre che sono solo per salire, invece adesso tutto mischiato, un po' come metropolitana di Londra, però senza l'educazione, cioè senza che dare la precedenza a chi scende, quindi si creano dei grovigli. L'Umarell vuole sempre, cioè è rispettoso delle regole, giustamente lui sale dalla porta davanti o dietro e mai da quella centrale, e a volte rimprovera chi sale dalla porta centrale. Allora fermiamoci un attimo, Danilo, perché sta arrivando la hit delle musiche suonate sulla metropolitana. A Roma pare che Besame Muccio sia in testa. Besame Muccio è la canzone più cantata e più suonata nelle metropolitane romane. Sergio, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo portare il mio contributo per quanto riguarda i suonatori ambulanti nelle metropolitane, in quanto a suo tempo, quando mio nonno era ancora in vita, e aveva la badante, il marito della sua badante era uno di questi suonatori. Che cos'era, un rumeno? Sì, era rumeno. Una sorta di... Lui suonava la chitarra, aveva questo amplificatore che, come ha raccontato bene, era legato a un carrellino, diciamo, della spesa modificato con il nastro. E una delle problematiche che lui mi lamentava sempre era quella delle batterie. Batterie molto costose, e cercavamo di recuperare le batterie in giro, perché fondamentalmente gli amplificatori avevano questo costo importante. Cioè, per recuperarle aprivano i cofani delle macchine, dove li prendevano? No, praticamente andavano da una sorta di rigattiere dove vendevano le batterie, non quelle normali che conosciamo noi, ma quelle, diciamo, di sottomarca. Cercavano di recuperare quel tipo di batterie. Sì, perché infatti quello è il vero problema. Consuma molto, perché sono sempre accesi. Le immagini che li vedo, li comincio a vedere a metà mattinata fino a metà pomeriggio, poi dopo staccano, di solito alle 5 di pomeriggio staccano, perché giustamente la giornata è finita. Ed era interessante, perché lui, quando rientrava a casa, mi raccontava tutto quello che accadeva sulla metropolitana o sui bus, e divideva quelli che sono i livelli di questa sorta di variaci, di suonava la chitarra insieme con un amico, e si dividevano le spese, appunto, delle batterie, di quello che sostenevano durante il giorno, e raccoglievano durante la giornata circa 30-40 euro, dipendeva poi dalle giornate e dai momenti festivi oppure no dei turisti. E mi raccontava che il livello superiore, diciamo lo step superiore, era il passaggio, chiaramente sempre non in regola, dalla metropolitana ai ristoranti, dove si potevano collegare sempre in nero, quindi con la condiscendenza del ristoratore. Vi era il livello, chiamiamolo 2, della possibilità di passare dalla metropolitana ai ristoranti. Ma nel ristorante ci vuole un accordo con cameriere e proprietario, perché ma c'era un accordo, mi raccontavano che c'era questo accordo, diciamo, di gentleman agreement, non so qualche ma no, sa, una percentuale, o se li considerano un intrattenimento giusto, sa, molta gente, me compreso, sono molto infastiditi quando ti arriva lo sternellatore mentre stai mangiando dietro. No, chiaro, ma infatti è proprio il livello 2, diciamo, che ci deve essere la condiscendenza, perché ha una qualità, come dire, di strumentale, che era abbastanza interessante. Loro suonavano la chitarra, come ho detto, e quindi era contento di avere questo secondo livello. Quindi aveva cominciato nelle metropolitane, dove mi raccontava che c'erano persone che fondamentalmente si giravano, delle persone che fondamentalmente non rispondevano. La cosa che a loro dava molto fastidio non era tanto il ricevere o meno i soldi, ma almeno avere l'accortezza di considerarli persone. Bisogna dire, cioè, a me infastidiscono molto, dico la verità, perché quando comincia a essere il terzo, quarto, in una tratta piuttosto lunga che sale, non riesco a provare compassione umana, me ne sento come un grande limite verso quel suonatore che viene lì, mi rifà per la decima volta Besame Mucho. Tommaso Labranca, visto che siamo ritornati all'argomento dei musicisti della metropolitana, si può dire qualcos'altro su questo genere particolare? Io non li trovo grandi artisti, onestamente. La serialità della dotazione del repertorio e dell'interpretazione fa sì che siano piuttosto degli amanuensi dell'intrattenimento forzato. Beh, è naturale, non sanno suonare qua una piccola sequenza di note che poi ripetono continuamente. Ti ripeto, io passo molto tempo sui mezzi pubblici, perché mi sposto molto, e quindi ne incontro anche 10-15 ogni pomeriggio, e hanno tutti, ti ripeto, lo stesso repertorio suonato con gli stessi errori. Quindi evidentemente ci sta un unico maestro, una specie di Beppe Vessicchio dei campi nomadi, che li istruisce e dà loro sia le informazioni esatte che quelle sbagliate. Sì, perché hai notato anche la formula di sono una povera mamma, date pochi soldi, esatto, un poco di latte, è uguale in tutta Italia da anni, sempre la stessa, detta sempre con la stessa voce. I signori scalzi col cappotto ai semafori sono sempre gli stessi, la vecchia tremolante finta stesa per terra che trema tutta col bastone, poi finito il turno si toglie e è sotto c'è un ragazzino. Sono uguali in tutta Italia. Io insisto che esista una sorta di fantastico format del mendicante. Vorrei capire dov'è la scuola. E non lo so la scuola dov'è, però io ho visto metropolitana un tipo che distribuiva fotocopie a una serie di costuanti, su cui c'era scritto mi chiamo Igor, e cioè la stessa storia triste la dava a tutti. Perché veramente è un'organizzazione da cui forse dovremmo anche imparare. siamo ancora alla ricerca della fantastica scaturigine di ogni espressione di reality da mezzo pubblico, da angolo di strada e via dicendo. Ancora il grande cervello non mi è chiaro che ci sia dietro gli amici delle metropolitane e dei marciapiedi. Sentiamo Giuseppina. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno a lei. Io la sento tutte le mattine, mi piace da morire. Dunque, io ho fatto per 30 anni la metropolitana. Non fisicamente, spero. Come fisicamente? No, no, non so, prendevo la medicina. Un palpito carnale, ma soltanto un casto ascolto. Prendevo la metropolitana tutte le mattine. Da casa mia, da Cassino dei Pecchi, che è a 15 chilometri da Milano, dal centro di Milano, in centro. E praticamente io mi sono fatto un giro di amicizie su questa metropolitana di ragazze che venivano da più lontano di me, eccetera. E noi ci incontravamo la mattina e si chiacchierava. Addirittura c'erano delle ragazze che magari facevano la spesa al mercato, arrivavano in metropolitana e dicevano: guarda cosa ho comprato qui, guarda cosa ho comprato lì, ah sì, davvero, oppure sai che vendono questo, sai che vendono qua. Praticamente eravamo un gruppo di persone che alla mattina si facevano il viaggio di mezz'ora, perché da dove abito io a Loreto si mettono 20 minuti. Ma Loreto andavate in pellegrinaggio oppure? No, è la stazione di Loreto. E niente, si chiacchierava di più del meno, uno aveva un problema, magari ti chiedeva un consiglio. Quindi prima ancora che inventassero Facebook, quando ancora Zuckerberg prendeva il latte, lo facevamo noi. Avevate inventato il social network da mezzo pubblico. Esatto, e si passava quei 20 minuti, mezz'ora, dipendeva da quello che dal viaggio che si doveva fare, in bella compagnia. Ma mai vi siete riviste al di fuori del tragitto dell'autobus? Allora, quelli che abitavano qui dove abito io, certamente, e difatti mio marito mi diceva: ma chi è quella? È una mia compagna di metrò. Cioè, io avevo le mie compagne di metrò, perché erano tutte persone che andavano a lavorare, ma di tutte le, dalla segretaria, quella che andava a fare i lavori in casa, eccetera. Quindi potevano appartenere, per quello che lei riguardava, a un'altra dimensione, potevano essere certo, delle aliene certo, che scomparivano, finita, uscita lei dalla sua fermata, non esistevano più. Immagini fantasmatiche per il tratto comune metropolitano. Beh, è fantastico che lei nella vita mai abbia sentito il bisogno di approfondire le esistenze delle sue amiche di metropolitano. Ma questo è uno dei tanti dilemmi che accadono a chi entra e esce in questo luogo parallelo che è il mezzo pubblico. A domani.